Andalusia, anima dell'anima mia, passi di luce da gigante, che in questo deserto tu sei la mia fonte, femmina di donna che donna, sotto il sole, sotto la gonna, tua è tutta la panna di Capocabana, di Cuba, di Spagna. Io sono il tuo torero, il tuo flamenco, il tuo bolero. Dimmi, dimmi, dimmi che è vero. Ti porto spezie di verde profumo, ti porterò a me vicino. Noi andremo molto lontano a bere latte dal tuo seno, a bere latte ogni mattino, a farci amore con il palato, a farci un piatto prelibato. Andalusia dream, Andalusia dream. Follia, Garcia Lorca, Neruda, Arabal, e ogni sera Pessoa aprirà le nostre danze dell'intelletto e parleremo ai bordi del letto, faremo anche dell'altro, faremo amore l'uno nell'altro. Io sono il tuo torero, il tuo flamenco, il tuo bolero. Dimmi, dimmi che io vengo davvero. Porto con me navi di spezie, oro di aria e tante stoffe come Noè. Ti porto l'arca, vieni con me sulla mia barca. Vieni a darmi la tua bocca, che fiera avanzi tu nei miei sogni, splendida donna, che vita danzi. Andalusia, Andalusia, Andalusia, Andalusia, Andalusia dream. Andalusia, oh, Andalusia.